Pusilăcă vin tanerin dogor, până viare la cașă neva mare. Ia suspirană, te parlai ramor, e tu trăman, mărișistă si. Muratella mia, si stata primavera, e questa gioventù, cara Lucia, che suona fantasia, nascette rindo cuore, vicino a te, Lucia. E poi una sera viene fredda e amara, a Napoli partette un vapore. Addio speranza, addio suonare amore, e addio per sempre a chi non torna più, cara Lucia, innamoratella mia. Si stata primavera e questa gioventù, cara Lucia, po' quanta nostalgia scennette rindo cuore lontana te. Come vanno sperdute pomona sti vite nostre, come l'occhio era gente, e parole sbagliate, stunate e vacante, correnna per l'aria, pazianna e renna, se vanno miscanna e imbrugliando. E allora sti vite sbandate e sbattute, tu e vire sperdute pomona, una ca. Nata là. Roppe tant'anni non ci siamo incontrati e non ci siamo quasi conosciuti. Tu muosi l'ombra triste ro passata e i mosso chil che non spera più, cara. Muratella mia, si stata primavera e questa gioventù, cara Lucia, mo che malinconia, ma sento rindo cuore, pensando a te. Thank you.